nella nostra realtà regionale e nelle singole realtà territoriali ci sono dei valori che sono più elevati, diciamo, della media appunto nazionale, e questo espone ovviamente la nostra realtà a maggiori problemi, maggiori rischi e maggiori necessità di cambiamento di stili di vita per i cittadini, i lavoratori e i pensionati. Quanto ha pesato per le famiglie e per i singoli l'inflazione? Sta pesando moltissimo. Noi abbiamo, diciamo, fatto uno spaccato fra diverse modalità, diversi nuclei familiari, chi ha più redditi e chi ne ha per esempio uno solo. E abbiamo visto che i single, che poi possono essere giovani o meno giovani, quindi anche appunto nuclei familiari con una sola persona e che quindi ha un solo reddito, magari non molto alto, o una sola pensione, ha un livello di peso molto più elevato rispetto, quindi una forbice che si allarga molto di più rispetto ai costi che deve sostenere, soprattutto perché questa inflazione è un costo che deriva da due questioni fondamentali. La prima è quella dei costi legati all'abitazione, quindi sono gli energetici che stanno pesando veramente moltissimo, quindi i costi delle bollette, luce e gas, e poi la spesa alimentare, che ovviamente purtroppo indotta dagli energetici, anche per esempio da ultimo il caro carburanti, sta vedendo un aumento di prezzi veramente esponenziale. È per questo che percentualmente le famiglie che già si trovano in condizioni di fragilità pagano di più. Sì, le disuguaglianze, quindi le differenze e le minori possibilità si stanno ampliando veramente moltissimo, appunto anche in Emilia Romagna, perché ovviamente l'inflazione, passatemi l'espressione, è una tassa estremamente ingiusta che si abbatte in maniera molto più pesante, molto più difficile farvi fronte per chi ha redditi più bassi o medio bassi. Redditi medi che sono, mentre prima diciamo erano un po' più difesi, in questo momento purtroppo anche redditi subiscono veramente una scure imponente. C'è un aspetto che mi ha colpito sempre dalla vostra analisi che riguarda le diverse province, perché, come dire, il dato generale è quello di inflazione media, riguarda tutto il territorio regionale, però ci sono diversificazioni tra città e città. Sì. Purtroppo anche molto importanti diversificazioni che vedono una maglia rosa nella città, diciamo, metropolitana di Bologna. Bologna è di sicuro, insieme a Ravenna e a Forlì Cesena, la città in cui i prezzi sono cresciuti effettivamente di più. Le altre realtà territoriali nella nostra regione, che è molto appunto anche articolata, vedono via via, insomma, tutte le altre realtà, da Reggio Emilia, Modena, più o meno dipanarsi intorno 7,5-8,3%. Ultima, ma qui c'è un tema, come dire, di realtà territoriale che è proprio connotata in questo modo, è appunto la città e la provincia di Ferrara. Ovviamente questi aggravi erodono il potere d'acquisto. Federconsumatori è molto attiva anche ad esempio sul tema energetico, e quali sono provvedimenti che potrebbero essere messi in campo per frenare questa inflazione? Prima cosa, facevo accenno anche prima al tema dei carburanti. Noi abbiamo chiesto in un incontro nazionale al ministro Urso l'immediato ripristino dello sconto sull'IVA che era stata effettuata dal governo Draghi. Questa è una prima cosa che noi abbiamo chiesto, che chiediamo tuttora. Dopodiché, sul tema energetico, bollette, luce e gas, noi abbiamo fatto un'attività intensissima in quest'ultimo anno, soprattutto per contrastare anche, diciamo, pratiche commerciali, diciamo, non trasparenti, purtroppo vanificata dalla recente sentenza del Consiglio di Stato. Siamo stati molto attivi sul tema delle rateizzazioni, perché il governo Draghi a un certo punto non le ha più riconfermate, mentre noi in Emilia Romagna, con le multi utilities presenti, siamo riusciti a mantenerle, e tuttora è così. Facciamo un'operazione di informazione rispetto anche proprio alle tariffe in quanto tali, perché quanto mai, come sempre, l'informazione e il potersi districare soprattutto sull'energia in una giungla veramente di proposte e di offerte è estremamente importante, quindi scegliere quella giusta per le famiglie è veramente importante. Quindi noi proseguiremo, anche se adesso sembrerebbe, noi lo auspichiamo anche, che i prezzi siano in calo, ma noi proseguiremo con grande lena, con grande forza, questo tipo di attività, perché questa è quella che si è determinata, è veramente una situazione molto molto complicata per le famiglie.